Allora, 11.54, ritorniamo in diretta per proporvi un collegamento molto importante perché i lavoratori Fincantieri, come tutti voi sapete, insomma, in questi giorni sono in fase di grossa mobilitazione. Ieri, insomma, ci sono state queste parole non certo incoraggianti del ministro dello sviluppo Passera. Ecco, chiaramente ci sembra che le iniziative di oggi, i lavoratori sono impegnati insomma in un blocco autostradale, testimoniano quanto queste parole non siano poi state chissà quanto apprezzate, dato che di piano industriale vero e proprio ancora non si parla e diciamo la cassa integrazione purtroppo rappresenta. Pronto? Insomma. Pronto, ci senti? Piero, ci senti? Piero? Sì? Ecco. Puoi parlare più forte? Guarda, ci stiamo provando e spero che così ti arrivi l'audio. Stavamo dicendo, insomma, che le iniziative di oggi dimostrano quanto le parole di Passera non vi abbiano affatto accontentato. D'altra parte c'è da crederlo, visto che di un piano industriale ancora non si parla. Non ti sento bene. Senti, allora facciamo che ci racconti dell'iniziativa di oggi, dai. Beh, niente, l'iniziativa di oggi è cominciata stamattina alle 6 quando siamo tornati da Roma, dopo l'incontro di ieri, che è stato un incontro assolutamente deludente, anzi è un incontro che non ha portato assolutamente niente, se non la conferma che il governo giudica l'accordo siglato solo da Fime Wilm, sigle che in fabbrica contano poco e niente, come l'unico accordo possibile, ed un accordo che non dà nessuna prospettiva a cantiere di Sesto. Stamattina siamo ritornati direttamente in fabbrica col pullman e c'erano i compagni che ci aspettavano, stavano facendo già i picchetti e abbiamo prima fatto, diciamo così, una specie di assemblea davanti al cantiere, poi ci siamo diretti verso l'uscita dell'autostrada, si è aggiunta a noi il sindaco di Genova che ha detto che chiederà un incontro urgente a Passera per questa cosa e poi sulla strada principale. Adesso stiamo ritornando verso il cantiere, oggi è una giornata di sciopero, continueremo con lo sciopero anche domani. Credo che ci saranno scioperi anche in altri cantieri in Italia, c'è senz'altro Palermo che è in lotta come noi da diversi giorni e credo Marghera ed Ancona. E a noi si sono aggiunte delegazioni di lavoratori delle fabbriche intorno, diverse anche esponenti di forze politiche e niente, noi cerchiamo di fare tutto il possibile per ribaltare questa situazione che ormai sta diventando assurda e che coinvolge la vita di migliaia di lavoratori. Eh sì, siete decisamente in questo momento un comparto che rappresenta un po' l'evolversi sul piano delle ricadute occupazionali e del lavoro di questa crisi economica, anche se il settore della cantieristica... Non sento se non parli più forte non sento assolutamente niente quello che stai dicendo. Ci senti adesso? Ci senti adesso? No. Pronto? Ci senti adesso, Pietro? Poco di più, dimmi. Poco di più, no. No, è difficile chiaramente comunicare in questo modo. Dicevo che il settore della cantieristica è da tempo che è in crisi, insomma. Certo, oggi ecco, i nodi sembrano essere venuti al pettine in modo definitivo, soprattutto per due impianti, no? Quello di Castellammare e quello di Sestri, che sono quelli che denunciano. Guarda, non riesco a capire le tue parole. Niente. Non può darsi che sia anche il mio telefono che sta andando giù di batteria, ma niente, comunque quello che dici, ho capito che parlavi della crisi della cantieristica. Non è tantissimo tempo che è in crisi, perché fino agli anni scorsi noi abbiamo avuto in tutti i cantieri piena occupazione. È chiaro che la crisi colpisce la cantieristica con un po' di ritardo, perché le navi ci vuole parecchio tempo a progettarle, diciamo, dall'ordine al momento che vengono costruite ci vuole un po' di tempo. Oggi c'è questa crisi e la scelta della Fincantiere è quella di ridurre il numero di cantieri, che è certamente la scelta più facile, no? Senza considerare però le ricadute sociali. La cosa paradossale è che l'accusa che la Fincantieri e anche una parte dell'opinione pubblica fa a noi di non voler fare navi, voi volete fare solo navi da crociera, è assolutamente falsa, perché noi non è che vogliamo fare solo navi da crociera, noi facevamo navi da crociera e ci hanno estromesso da questo settore dicendo che se anche prendessero delle navi da crociera noi non le faremo più. Nello stesso tempo non ci hanno offerto nessun'altra prospettiva, nessun'altra produzione, cioè è l'azienda che deve mobilitarsi per trovare del lavoro anche in altri campi, che sono campi di costruzione che si fanno non in Estremo Oriente dove i costi sono diversi, ma che si fanno in paesi come la Francia, come la Germania, come la Finlandia, che hanno un costo del lavoro superiore al nostro. Quindi mentre in questi paesi qualcosa, nonostante la crisi, si riesce a fare, in Italia si accusano noi di voler fare solo navi da crociera e non ci propongono niente in cambio. Il governo ha una grossissima responsabilità, i governi, quelli che c'erano, quelli che ci sono adesso, perché non sta facendo, cioè non interviene su questo, sia come padrone, diciamo, nel senso che è il proprietario di Fincantieri, sia come possibile regista di una politica industriale, per esempio nel campo dei trasporti, delle autostrade del mare, del rinnovo della flotta dei traghetti, che è una delle flotte più vecchie del mondo, che fra l'altro, mentre altri paesi come la Finlandia per esempio stanno già investendo in traghetti ecologici che diventeranno poi la norma nei prossimi anni. Ecco, qui invece in Italia, piuttosto che procedere ad un rinnovo degli impianti e delle infrastrutture che potrebbero permettere anche tipi di produzione diversi, come tu dicevi, ci si è concentrati su un settore della cantieristica, quello delle navi da crociera, inseguendo questo modello coreano e giapponese prima, e il tutto per abbassare le condizioni di costo del lavoro. Questo è sempre stato l'obiettivo prioritario per cercare di trovare una competizione. Oggi sono delle vere e proprie prese in giro. Se tu prendi l'accordo che è stato firmato poco prima di Natale dall'azienda con Cirile Will, ci sono tante belle parole e poi ci sono per il cantiere in 2 anni, compreso completamente della nave, un investimento di 400 milioni, che su una dimensione di un cantiere come il nostro è poco più del costo delle utenze. E l'investimento è finalizzato a tenere il cantiere in sicurezza, cioè a far sì che il cantiere non crolli e stia insieme. E questo ci viene facciato come il fatto, la volontà di tenere il cantiere aperto. Se vai, cioè i più diretti concorrenti della Fincantieri in questi anni, che sono i cantieri della Meyer Werft di Papenburg, fanno le navi al coperto in cantieri che sembrano usciti dal cielo fa 2 giorni fa, quindi si possono vedere, tutti li possono vedere anche su internet, quindi c'è anche veramente una campagna di disinformazione su quella che è la reale oggetto del contendere in questa vertenza. Il governo li va dietro, perché ieri Passera, almeno noi non abbiamo partecipato solo Landini e il coordinatore nazionale per la FIOM, Fime e Wilm sono entrate, non so chi ha partecipato, perché sono entrate da una porta laterale perché hanno paura di farsi vedere dai lavoratori. Il ministro Passera ha di nuovo parlato di investimenti, di ricerca, eccetera, che sono parole che non si negano a nessuno, però cifre e tempi, che sono quelle che contano, lui dovrebbe saperlo perché viene dalle banche, non ce l'ha messo, insomma. E soprattutto si tratta di questioni che, mi sembra di capire, ancora non trovano una loro collocazione all'interno del piano proposto da Bono, cioè dall'amministratore delegato. Il piano di Bono è abbastanza semplice: ridurre tutto al nord-est dell'Italia più il pezzo del militare, il resto, se c'è un po' di lavoro dagli enti pubblici, lavora e dunque chiude. L'unica cosa che c'è nel piano sono 2 punzecchiature al comune, alla regione, perché non commissionano l'inceneritore in mare, le carceri galleggianti e cose di questo genere, però non è una politica industriale seria, è l'azienda che avrebbe dovuto un po' stare delle produzioni alternative, non dire se mi ordinano questa cosa io sono anche disposto a farla. Non abbiamo visto, diciamo, particolari movimenti su questo fronte in questi anni, no? Poi mi si meraviglia che una volta che mancano le manovre da crociera rimane quei cantieri senza lavoro, però insomma la crisi ormai ha 4 anni quasi, quindi ma il tempo per pensarci c'era anche. Senti Pietro, è a questo punto che di fatto lo stesso governo sembra aver accettato come dire, questo percorso separato. Quali saranno questo percorso separato, intendo dire, con le sindacali? Si faccia vedere forte proprio per la sua debolezza. Cioè, l'unica spiegazione che mi so dare da questo comportamento è che ha paura che se fa un accordo con noi su questa cosa, diciamo, poi deve farli anche con tutti quegli altri settori, sono tanti in Italia in crisi oggi, e deve passare dagli interessi bancari agli interessi dei lavoratori a mettere le mani su queste cose qua, e quindi non lo vuol fare. E noi cerchiamo di condurre la lotta con tutti i mezzi che abbiamo fino a un fondo, che ce la facciamo, può darsi che non ce la facciamo, però di fatto il nostro obiettivo è quello di mantenere il cantiere di Sestri aperto, pur diciamo rendendoci conto delle difficoltà, delle crisi, del mercato, di tutte queste cose qua, però mantenerlo aperto e dare una prospettiva per il futuro. Il cantiere volevano chiuderlo nell'82-83, quando all'Iri c'era Prodi, e i lavoratori sono riusciti a non farlo chiudere, dopo che non è stato chiuso, ha fatto nasi per quasi 30 anni. Cioè, noi vogliamo che i prossimi 30 anni siano come quelli che sono passati dall'83 fino all'anno scorso. Cioè, se chiudono, navi qua non se ne fanno più, e si impoverisce i lavoratori del cantiere, ma anche tutta la struttura sociale che ormai da 150 anni in questa zona di Genova vive intorno alla cantieristica, insomma. Certo, magari proprio ripercorrere le tappe dell'ultimo trentennio non so quanto possa essere positivo, visto ad esempio quanto si è allargato a dismisura, no, la situazione dell'appalto. Prima diciamo si lavorava in modo diverso all'interno di questo settore. Certo. Per cui ecco, però è chiaro che oggi insomma la questione occupazionale è quella principale. Pietro, la vostra è una lotta certamente che deve servire da esempio per tutti quanti i settori colpiti dalla crisi. Anche la lotta per i lavoratori dell'appalto, perché certo. Non è che sono certo. Lavoratori di serie B, anzi oggi se dobbiamo dire, cioè la grosso del lavoro di costruzione di una nave lo fanno loro, cioè hanno meno mezzi di noi a volte di farci sentire, ma noi, cioè cantiere, questa lotta è fatta con la partecipazione, pur con le difficoltà e la precarietà che hanno, anche dei lavoratori dell'appalto, così come la lotta del cantiere di Palermo. Se abbiamo sentito anche interviste di lavoratori, perché sono i primi ad essere colpiti, cioè sono già quelli su cui pesa una fortissima precarietà del lavoro quando c'è tanto lavoro, sono i primi ad essere colpiti. Molti di loro non hanno neanche la cassa integrazione, finito il lavoro si trovano a casa, non è che non hanno la bocca del mangiare per mangiare come c'ho io o come c'è il testo. Quindi, cioè, per noi la lotta è la lotta di tutti i lavoratori di cantiere, appalto o Fincantieri. Va bene, grazie per questo intervento, per questa lunga chiacchierata. Pietro, ci risentiamo presto, speriamo, per raccontare d'accordo sviluppi positivi. Ciao, a presto.